Piccolo inno domenicale. Dalla nostra inviata speciale, l'addetta a fremere. Avola augusta, avola imperatrice, tenerissima neonata, pelata fine, mandorla tostata, confetta, glassata, salata, candida avola stanza intonacata, figlia secca di un albero austero, avola emula del grande mistero, figlia tutta pelle e ossa di morto, il ramo assomiglia al tronco, emula famula di Cristo risorto. Balzo atletico da lavello, lo accompagna un nitrito di cavallo. Avola ovale, fessura ripiena, avola dulcedo, dulcedo nuziale, mea banca del seme, mio imene meorlo, ciglia di rondine occhiello sublingua me obolo, proserpina tota pulcra in cerere sepulta, refugium peccatorum ricetto, ricettacolo, tenera e velante, brucherba novella, avola di glicine sparso, nunzia stella, fidanzatina di Gesù, sposina dell'agnello, me polvere d'ossa, pellegrina, pecorella, agnola zoppata di marzapane, pastura pastiera, sacrificio di pasta reale, come i cappuccini messi negli avelli a scolare, lacrima Cristi, colomba lucente, lacrima lune, perla lattescente, figlia molle, croccante, Micola caramello, Micola, Micola caramello, Micola, lobo di Buddha, orecchio di Dionisio, avula putela, putela, putela, regina cunegonda, la culla di Madonna, avola cuna sospesa, dimora rotante del beato figurante angelico, aeoe, trattatela come un petalo, calida nicchia dorata idratante, avola sulla pelle ceretta delicata, latte tonico, altalena, avola fonte battesimale in ore lieta, animella fiato acidula della primissima comunione, avola avida d'enzimi e proteine a colazione, avola rebus minerale al conquibus enzimina, avola in albis, alba mandorla in albedo, risveglio di amilasi e prolattina, cara avola, rinfrescante papaina, avola albume montato a neve, latte di mandorla che spegne la sete, amaretto bomboniera bombon ricoperto, occhi neri di Biancaneve, sacra reliquia, muscoli spurgati di molluschi, ostriche, vulve in deliquio, cupi di nervetti, trasparenti cartilagini arrossite, andate a nozze pulsantibus organis, organetti jubilusi, con tutti gli sentimenti festivi di caste vite e vitirigine. Avola amigdala, mandola mandolino, avola mantella mantelit, avola amanda, avola vela, omni al monda munda mundi, tutta clara e silarata, aioe, da prendersi a piccole dosi, aioe, da prendersi a piccoli sorsi, sorsi, sorsi. Una tovaglia, un prata e due cuzzupi, un morse pane e un gocce vino, con dulavia d'agnela famata, bella, bella. E c'è ostia, candidissima, canditissima. ma è mea bucca, e c'è ostia candidissima, candisce in bucca della Pasqua strizzone, sogno d'interenezza, bella e porca, mare e luna, e nulla più morte, nullo più dolore, nulla tristezza. Ae, ae, tocca tutte le cose, fuori è bello, fai forca, e nulla più fratture, scoliosi, angine, bocca torta, e ferve il tutto corpo nel piano delle forze. Muriobali, sbendatelo! E ferve il tutto carne nel colmo della vita, nel piatto che non lustri, nel piatto che non piagne. Caddi in un sonno paradossale, normale. Muriobali, sbendatelo! Anche stamani ti ho sognato, amore. Stop. Ti ricopriva una lanugine folta. Na mio horeng dio, na mio horeng dio, na mio horeng dio, na mio horeng dio. Na mio horeng dio, na mio horeng dio, na mio horeng dio, na mio horeng dio. O due che si toccano la prima volta. Per il bianco e rosso è riacceso come un mondo nuovo. Una penetrazione reciproca. E nulla dolore, nulla divieti, nulla più chiesia. Trapiantati il mio cuore, ero gratis. Sbendatelo! E nulla più tristezza, nulla dolore, tutta donazione. E nulla più passione, nulla ripari e pentimento. Dammi a te integralmente, se mi vuoi consolare. E nulla più rinascimento. Ogni parrucchia una capa e spilla, e parrucchie, poi cerilla, ogni parrucchia una capa e spilla.